Grazie Giovanni. Sì, sì, facciamo l'applauso perché io amo Giovanni. Se è vero quello che ha detto, e cioè che abbiamo ministri meravigliosi, lui è uno di questi e sta facendo un lavoro fantastico a Mottola e lo benediciamo, ti benediciamo nel nome di Gesù, affinché la luce che è in te possa risplendere e moltiplicarsi per Mottola e tutta la provincia. Amen? Amen. Salmi, pronti? Ci siete? Attenti? Affamati? Io lo sono sempre quando leggo un salmo perché con aspettativa voglio sempre scoprire quello che c'è nel salmo, perché non solo il salmo ma tutta la sua parola è orocolato. Sapete perché mi piace tantissimo questo libro? Beh, prima di tutto perché non è un libro, ma è la parola di Dio divina, ispirata e data a noi. E poi perché questo libro, i salmi, dal primo all'ultimo, mettono le cose a posto. Mettono ogni cosa nel giusto posto. E tutti i salmi lo fanno, e perché la nostra indole è mettere noi al centro dell'universo, no? Io penso che sia abbastanza naturale questo, e proprio ci viene naturale. Al bambino mica gli devi insegnare mio, no, quello già dalla pancia della mamma sa dire che mamma è mia, o il giocattolo è mio se glielo provi a strappare. È la stessa tendenza abbiamo noi, no? Quando iniziamo col nostro lunedì mattina, allora iniziamo a dire, vabbè, io devo fare questo, io devo andare lì, io devo curare questo, io devo seguire quella persona, io devo cucinare lì, devo fare quello, e io. E mettiamo noi così tanto facilmente al centro dell'universo. La cosa meravigliosa dei salmi è che portano ordine a tutto questo, che mettono tutte le cose al giusto posto. E il Salmo 24, quello che guarderemo questa sera, non è da meno. Tutti i salmi, dal primo al 150esimo, io credo che ce ne siano 150, perché io Gianluca Ronchi ho bisogno di ricordarlo, non una, non 15, non 20, ma 150 milioni di volte che è Dio il centro dell'universo. E io, solo se comprendo questo, solo se comprendo che Lui è al centro, che Lui è il primato, che Lui è la primizia, che Lui è la priorità, allora tutto il resto girerà bene, per il verso giusto. La mia vita sarà piena, è veramente piena, sarà vita e vita vera, solo se Lui prende il luogo che gli spetta. E questo fanno i salmi, questo fanno i salmi. E come dicevo, il Salmo 24 non è da meno. Quindi leggiamolo e vediamo come questo salmo mette Dio al centro e prima di ogni cosa. E poi leggiamolo attentamente, quindi quando lo leggiamo preghiamolo prima di tutto, perché è una preghiera, è un canto. Però questo salmo contiene due domande, e quindi mentre lo leggiamo prestate attenzione e cercate di individuare queste due domande, d'accordo? Salmo 24. Al Signore appartiene la terra e tutto quello che è in essa, il mondo e i suoi abitanti, poiché egli l'ha fondata sui mari e l'ha stabilita sui fiumi. Chi salirà al monte del Signore? Chi potrà stare nel luogo santo suo? L'uomo innocente di mano e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con il proposito di ingannare. Egli, questo uomo, riceverà benedizione dal Signore, giustizia dal Dio della sua salvezza. Tale è la generazione di quelli che lo cercano, di quelli che cercano il tuo volto, o Dio di Giacobbe. O porte, alzate i vostri frontoni, e voi porte eterne, alzatevi, e il Re di gloria entrerà. Chi è? Chi è questo Re di gloria? È il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. O porte, alzate i vostri capi, alzate o porte eterne, e il Re di gloria entrerà. Chi è? Chi è questo Re di gloria? È il Signore degli eserciti, egli è il Re di gloria. Non è magnifico questo salmo? Avete visto come inizia? Da dove inizia? A mettere Lui al centro. Dice: all'Eterno, al Signore appartiene ogni cosa. Sua è ogni cosa inanimata, la montagna, la pietra, l'albero che non si muove, qualsiasi cosa, tutto il globo è suo. E ogni animale in esso, dal microbo più piccolo al dinosauro più grande che c'è stato, dall'essere umano più alto, più basso, più bello, più brutto, più bianco, più nero, appartiene a lui. Ogni cosa gli appartiene, è sua. È sua, è sua. Fratelli e sorelle, vedete come questo mette tutto nella giusta prospettiva. Io non appartengo a me stesso. Io non sono mio. Io sono suo. Io appartengo a lui e ogni mio pensiero, ogni mio proposito, ogni mio piano gli appartiene. È suo perché ogni cosa è sua. Perché? Ogni cosa è sua. Perché ogni cosa gli appartiene? E chi si crede di essere questo? Lui è il Dio glorioso. Il verso 2 ce lo risponde. E quindi qui abbassiamo il tono. Se dovessimo fare quella domanda. Perché lui l'ha fondata sui mari. In altre parole, è lui che ha creato ogni cosa. Io gli appartengo, tu gli appartieni, l'albero gli appartiene, la montagna e la pietra gli appartiene perché lui l'ha creato, lui l'ha fatto ed è suo. Questo proprietario è un proprietario incredibile, perché non solo ha creato questo terreno, non solo l'ha comprato, non solo ci ha costruito la casa, ma quando è arrivato il punto di metterci l'inquilino, non l'ha chiamato, non l'ha cercato, non l'ha trovato, l'ha creato, se l'è fatto da sé e l'ha messo nella casa. Ogni cosa le appartiene, io, tu, ogni cosa che c'è intorno gli appartiene, è suo. Io gli appartengo, io non sono mio. E questo è il nostro Dio glorioso, è questo il nostro Dio grande, è questo il nostro Dio incredibile che viene celebrato in questo Salmo e che questo Salmo mette subito giù per iscritto e chiaro. È Lui il centro, è Lui l'inizio e la fine di ogni cosa. A Lui appartiene il primato e il centro. È quello che noi possiamo fare, l'unica cosa che possiamo fare, fratelli e sorelle, è metterlo al giusto posto e dire, sì Signore, tu sei qui e se hai bisogno di prendermi per capelli, prendimi pure per capelli e mettimi qui, perché solo quando sarò qui e sarò in grado di poterti contemplare, guardare, vedere dove, nel luogo che ti spetta, dove ti spetta, allora la mia vita avrà senso, allora la mia vita sarà completa, allora la mia vita girerà nel verso giusto. Ma chi può avvicinarsi a questo Dio glorioso? Chi, come vedremo nel verso 5, può ricevere benedizioni, può ricevere giustizia, può ricevere salvezza da questo Dio glorioso? Chi? E questa è la prima domanda del Salmo. E a questa domanda ci rivolgiamo nel verso 3. C'è scritto, chi salirà al monte del Signore? Chi potrà stare nel luogo santo? Sono due domande che pongono lo stesso quesito, che fanno la stessa domanda in altre parole. Chi salirà al monte? Sta chiamando il monte di Sion, il monte dove era il Tempio, il simbolo della dove risiedeva la presenza di Dio. Lì è dove il Signore stava, lì era dove il Signore si poteva vivere e sentire. E il Salmo, il salmista Davide, si chiede chi potrà salire al suo Monte Santo e chi potrà stare alla sua presenza, alla presenza gloriosa di questo Dio a cui appartiene ogni cosa e che ha ogni cosa e che può ogni cosa. Chi può stare alla sua presenza? Chi può salire al suo monte ha delle caratteristiche ben precise. E ce le raccontano il verso 4. Sono quattro caratteristiche, e quindi ci sono almeno queste quattro caratteristiche indispensabili, fondamentali per avvicinarci a questo Dio glorioso e a ricevere la sua benedizione. La prima è essere innocente di mano. E non essersi sporcati le mani, le proprie azioni, di nessuna cosa cattiva, di nessuna cosa che è contro la sua volontà. Chi si può avvicinare al Dio Onnipotente è colui che non si è mai sporcato le mani né di sangue né di fango né di nessun'altra cosa. Chi si può avvicinare? L'unico che si può avvicinare al Dio glorioso è colui che negli atti esteriori, questo sta a significare le mani, negli atti esteriori non ha commesso nessuna cosa errata, nessuna cosa sbagliata. La seconda caratteristica è che è puro di cuore. Non solo si è sporcato le mani, ma non si è neanche macchiato il cuore. Al Signore non basta un esteriore limpido e pulito, un'apparenza che sembra tutto a posto. Il Signore va oltre, il Signore guarda il nostro cuore e se vogliamo salire a quel monte, stare alla sua presenza e contemplarlo e ricevere benedizioni, siamo chiamati ad essere puri di cuore. Nessuna macchia, niente che immischia i nostri sentimenti, il nostro più intimo, con le cose che non appartengono a Dio. Ricordate, questo ricorda molto il sermone sul monte. Ricordate Gesù quando ha predicato questo messaggio e ha equiparato, ha detto che era la stessa cosa, avere pensieri impuri e l'adulterio. Il pensiero, quello che sta nel cuore, con l'azione pratica per Dio sono uguali. Ha detto la stessa cosa della rabbia. Chi ha questo sentimento, chi ha il sentimento di rabbia, è uguale a una persona che ammazza, è uguale a una persona che si sporca le mani di sangue. E Cristo Gesù ha detto, beati i puri di cuore, perché sono loro che vedranno Dio. Sono solo loro che possono vedere Dio, puri di mani, puri di azione, senza macchia sulle loro mani e senza macchia sul loro cuore. La terza è che non elevano l'animo a vanità, cose vane. Che cosa significa questo? Che non alzano il loro cuore, la loro vita, tutto se stessi a cose che non servono a niente, a cose vane, a cose inutili, a cose che non servono a niente, a cose che sono uno spreco di tempo. La capite la domanda? Chi potrà? Io sono arrivato a questo punto e ho detto, Signore, non lo so, non lo so. Io elevo continuamente la mia vita, il mio tempo, la mia anima a cose vane. Vedi TV, Facebook, internet, chiacchiere, eccetera, eccetera, eccetera. Chi salirà? Chi starà? Chi è puro di mani? Chi è puro di cuore? Chi non eleva l'animo a cose vane? E non basta. Chi non giura con frode, chi non giura con imbroglio, chi non giura con inganno, chi non dice una mezza bugia per sistemare le cose, no? Pagare un po' meno una bolletta, pagare un po' meno le tasse, aggirare da qui, aggirare da là, è una bugia bianca, che male ci sarà? Non puoi vedere Dio, non puoi stare alla sua presenza, non puoi salire a quel monte. È la cosa peggiore che possa esistere in questo universo. Questo è chi è, questa è la persona, questo è l'uomo, questa è la donna che può salire e che può stare. Ed è l'unica persona che può stare alla sua presenza. Fratelli e sorelle, queste caratteristiche sono imprescindibili. Noi siamo chiamati ad essere santi come Dio è santo, se vogliamo vederlo, se vogliamo stare in sua presenza. Solo questo uomo, l'uomo che sarà in grado di salire, l'uomo che sarà in grado di stare alla sua presenza. Nel verso 5 c'è scritto riceverà benedizioni. Per questo Efesini 1 può dire noi siamo stati benedetti in ogni cosa in Cristo Gesù. Alla sua presenza, su quel monte che simboleggia lo stare con Lui e poterlo vedere, si ricevono benedizioni, non solo, giustizia. Lui ci fa giustizia, non solo, questo termine è strettamente relegato o abbinato alla giustificazione. È quella figura di giudice che giustifica, che ci rende giusti. Vuoi essere giusto perché da te stesso non lo sei? Devi stare con Dio, devi poter essere in grado di salire a quel monte e contemplare la sua bellezza. E per far questo devi essere pulito di mani, senza macchia sul tuo cuore, eccetera, eccetera. E non solo, è qui che Dio diventa il Dio della nostra salvezza. Questo è il gruppo di persone, questa è la generazione, c'è scritto generazione, secondo me significa proprio questo, questo è il gruppo di persone, questo è il popolo che ricerca la sua faccia e ricerca il suo volto. Questa è la generazione che ha quella fame di voler stare con Lui. Coloro che sono puri di mani, puri di cuore, eccetera, eccetera. E la domanda ci sta tutta, no? Ve la ricordate la prima domanda del Salmo? Qual era la prima domanda del Salmo? Chi? Chi salirà? Chi starà? E se all'inizio, sai, la prima volta che si legge, la prima volta che l'abbiamo letto insieme, no? È di curiosità, è di intrigo. Vediamo un po', chi ce la fa? Chi è in grado di salire? Dopo aver letto questi versetti, dice, diventa un po' più fatalistica la domanda. Non è vero? Dici, chi? Io? No. Io non ce la faccio. Io non sono, è perfettamente puro di mani, puro di cuore, puro nel mio sentimento e unico e direzionato solo a Dio. Io no. E quindi la domanda passa da una domanda di curiosità a una proprio di fatalismo, a dire chi? E chi può? E a questo punto il Salmo ci mette una parolina ebraica, Selah, che non si è riusciti a tradurre bene, non si sa esattamente che cosa significa. Molto probabilmente è una nota musicale, perché sapete, i salmi erano canti, e molto probabilmente significava pausa, era una pausa musicale che ci stava in quel punto del Salmo. E a me piace tantissimo. È come se il Salmo a questo punto dicesse pausa. Chi salirà? Chi starà? Se è solo l'uomo puro di mani e di cuore, che non eleva l'animo a cose vuote e insensate, che non dice menzogne per sistemare la sua vita, chi salirà? Chi è quella generazione? Dov'è quel popolo? Pausa. Pausa. Sapete il Salmo, secondo me, che cosa sta dicendo? Ponderala. Pensala. Meditala. Meditala. Fattela questa domanda. Io posso salire. Io sono in grado di stare. Sapete, è questo che amo dei salmi. Perché? Perché sono sinceri. E ci chiamano ad essere sinceri. Fratelli e sorelle, dobbiamo farci questa domanda. Amici, dobbiamo porci questa domanda. Sarò in grado di salire? Sarò in grado di stare? Non possiamo evitare le domande difficili. Non possiamo evitare le domande scomode. Per rompere i nostri equilibri. Se equilibri sono, perché magari non lo sono per niente. Chi salirà? Chi starà? Signore, io potrò mai salire. Signore, io potrò mai stare. Pausa. Però il Salmo non finisce qui. E sembra però che il Salmo a questo punto cambia. È come se diventa un altro Salmo, no? Nei suoi toni, ma anche nel contenuto, ciò che dice dal verso 7 in poi, sembra che cambia completamente, no? È un Salmo festivo, è un Salmo che ci dà un'immagine gloriosa di un re, di soldati che si avvicinano a una città, forse, o a un tempio. È vero? L'avete letto con me quello che dice? È proprio questa l'immagine. Io se chiudo gli occhi e mi concentro, la riesco a vedere, no? Immaginate un po', il re ha appena combattuto una battaglia, magari ardua, magari è sporco di sangue, però ha vinto. Lui e il suo esercito hanno vinto. E tornano a casa, stanno marciando tutti insieme, si avvicinano alla città. 1 chilometro, 500 metri, 50 metri, arrivano davanti alle porte. I soldati che accompagnano questo re glorioso e vittorioso dicono ai soldati che si trovano su queste mura imponenti, davanti a queste porte magnifiche. I soldati gridano, gli altri soldati che sono sulle mura, e dicono: aprite le porte! Aprite le porte! Perché è arrivato il re! Perché è arrivato il re! Apritele queste porte! E i soldati sulle mura si dicono: e chi è questo re? Chi è? Chi lo conosce? No, non credo che fosse così. Non credo che fosse questo tipo di domanda. Secondo me la domanda qui è proprio anche questa, retorica. Perché era impossibile per i soldati non vedere che era il loro re, che era il loro esercito e che avevano vinto. E quindi secondo me la risposta dei soldati sulle mura è: e chi è questo re di gloria se non il nostro? E chi è questo re magnifico? E alla risposta: alzate le porte, fatelo entrare, è certo che è il nostro re, è certo che apriamo queste porte, è certo che lo facciamo entrare, è certo che lo lodiamo e lo innalziamo, perché lui è vittorioso e glorioso in battaglia. E questo è il mio Dio, è il tuo Dio, fratello e sorelle, questo è il nostro Dio, lui è glorioso e potente, è potente in battaglia, è vittorioso su ogni battaglia. Questo è il re descritto da Davide. Ricordate, questo salmo è scritto da Davide e Davide sapeva che il suo re era vittorioso in battaglia. Ricordate, dal leone è passato all'orso e dall'orso al gigante. Lui sapeva che il suo Dio che era con lui era forte e potente in battaglia e lo ha guidato nelle battaglie e a vincerle le battaglie. Ogni battaglia, anche in tutto il suo regno, quando ci sono state disfatte, Davide è in grado di dire: il mio Dio è potente e forte nella battaglia. Questo è il nostro Dio, questo è il nostro re e questo è quello che celebra Davide in questa parte del secondo salmo. Lui è forte e potente, potente in battaglia. Ma io mi chiedo a questo punto, ma c'è di più? Voi non lo fate mai quando leggete la parola. Non c'è qualcosa di più, c'è qualcosa che, ma è possibile che questo salmo rimanga sconnesso fra la prima domanda che si chiede chi salirà, chi starà, e la seconda domanda che chiede chi è questo re di gloria? È possibile che questo salmo rimane tagliato a metà? Sembrano due, perché l'hanno inglobato in uno? Che cosa succede? C'è di più, c'è di più, c'è di più. C'è tanto e gloriosamente di più. Perché a questo punto dobbiamo fare una cosa fondamentale con la parola di Dio, è interpretare la Bibbia, cioè farci dire quello che dice con la Bibbia, con altri versetti. E vi leggo un altro versetto. L'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 2,8 dice questo. Dice che se i dominatori di questo mondo, se Ponzio Pilato, se Erode, avessero saputo la sapienza di Dio, la misteriosa sapienza di Dio, se loro avessero saputo quello che stava succedendo, non avrebbero, questo lo leggo, questo versetto 1 Corinzi 2,8, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ah, no, non ho letto bene, forse dovete... Non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Chi è il re di gloria? Chi è il Signore della gloria? È il crocifisso, è Cristo Gesù, è Lui il magnifico e glorioso re. Ma è certo che si rende più viva e più vera la metafora di questo re, non è vero? Cristo Gesù, in tutta la sua gloria, scende sul mondo, combatte una battaglia e combatte una battaglia ardua con i suoi angeli, combatte la battaglia contro la morte e contro il peccato, è una battaglia all'ultimo sangue, letteralmente all'ultimo sangue, quello che ha sudato e quello che ha sparso sulla croce, è una battaglia all'ultimo sangue. E lui ha vinto, lui è potente e glorioso in battaglia. Il nostro re dei re ha conquistato e ha vinto, accompagnato dagli angeli. Che ha fatto il nostro glorioso re? Si è presentato davanti, c'è scritto, le porte eterne. Perché eterne? Quali sono le porte eterne se non le porte del regno di Dio? Il regno che è sempre stato e ci sarà per sempre. E tutto quello che avviene qui sulla terra è solo un'immagine di quello. Lui si è presentato davanti alle porte eterne stesse, davanti alle porte gloriose del regno di Dio. E gli angeli hanno gridato agli angeli che lo aspettavano: aprite la porta, sollevate le teste, letteralmente c'è scritto proprio alle porte, sollevate i vostri capi. Sapete a me cosa piace pensare? È che gli angeli stessero dicendo alle porte: fatevi più grandi, il nostro re è così grande e glorioso che vi dovete fare più grandi, vi dovete fare più alte, vi dovete fare più larghe, vi dovete fare più profonde, perché il nostro glorioso Dio è magnifico. E chi è questo re di gloria? Rispondono gli angeli. E chi è questo re di gloria? È il Signore potente in battaglia. È Cristo Gesù che ha vinto una volta e per sempre. È Lui che è acclamato dagli angeli. È Lui, come abbiamo prima letto, durante la lode adorazione, che è diventato così tanto più grande degli angeli. Perché? Perché Lui ha combattuto la battaglia, Lui ha combattuto la morte e Lui è risorto in vittoria per vincere una volta e per sempre. Questo è il mio re, questo è il tuo re, ed è una cosa magnifica. Ma c'è di più, non finisce neanche qui. C'è di più, perché a questo punto abbiamo solo spiegato meglio la seconda parte del Salmo. La prima rimane ancora scommessa, o rimane sconnessa. C'è di più. Cristo Gesù non solo è il Re glorioso, è vittorioso e potente. Cristo Gesù è l'uomo perfetto. Cristo Gesù è l'unico che non si è macchiato le mani, che non si è macchiato il cuore. Cristo Gesù è l'unico che non ha elevato la sua vita, il suo tempo, il suo cuore a cose vane, vuote, a idoli. Cristo Gesù è l'unico veramente perfetto che non ha mai detto una menzogna per migliorare la sua situazione. Lui è l'uomo perfetto che può salire e che può stare. Leggiamo insieme da Ebrei 9, Ebrei 9, 24, sentite che cosa dice. Cristo non è entrato in un luogo santissimo fatto da mano d'uomo. È quello che dicevo prima. Cristo Gesù non è entrato nel tempio della terra fatto di pietre. No, Lui è entrato direttamente nel cielo stesso, c'è scritto. Quindi Cristo Gesù non è entrato in un luogo santissimo fatto di mano d'uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora alla presenza di Dio per noi. Per noi. Ricordate questo per noi, sottolineate questo per noi. Da questo verso abbiamo la conferma che il nostro Cristo, che il nostro Messia, che il nostro Gesù è il Re vittorioso. Lui ha varcato la porta del paradiso stesso per essere accolto in gloria. Ebrei 4, continuiamo a leggere da Ebrei, perché dice altro, aggiunge altro. Avendo dunque questo grande sommo sacerdote, e sta usando la parola di Dio solo un'altra metafora, qui la mette come il grande sommo sacerdote, il Salmo 24 lo mette come un grande re, stesso significato. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Qual è la fede che noi professiamo e nella quale dobbiamo stare fermi? Che Cristo Gesù è il Re che ha vinto la morte una volta per sempre. Amen? Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, perché Egli è stato tentato come noi in ogni cosa senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Che cosa stanno dicendo questi altri versetti? Che Dio, il Re glorioso, Gesù, il Re sovrano, ha lasciato il suo trono e quando è sceso su questa terra, Lui è stato, c'è scritto, Lui è stato tentato. Lui è stato tentato, fratelli e sorelle, a sporcarsi le mani. Lui è stato tentato a macchiarsi il cuore. Lui è stato tentato ad elevare la sua vita, la sua anima a cose vuote, false. Lui è stato tentato nel dire cose false, ma non è caduto. Lui è rimasto perfetto, senza macchia, senza ruga. Lui è l'uomo perfetto che può salire ed è salito a quel monte. Lui è l'uomo perfetto che sta alla presenza di Dio e può rimanere alla presenza di Dio senza essere folgorato, perché lui è colui che è perfetto. Lui non si è imbacchiato né mani e né cuore. Ma ricordate che cosa abbiamo letto? Lui ha fatto tutto questo per se stesso, sicuramente. Lui ha fatto al di sopra di ogni altra cosa questo per Dio, perché era suo padre e lo ha fatto per innalzare e glorificare il suo nome. Ma abbiamo letto che lo ha fatto anche per noi. Lo ha fatto per me e per te. Che cosa significa questo? Il fatto che lui non si è mai macchiato, il fatto che lui non ha mai peccato, il fatto che lui ha vinto sulla morte, il fatto che lui è in grado di salire quel monte e stare alla sua presenza, ha fatto una strada. Ha fatto una strada che io e tu possiamo seguire. È una strada che noi possiamo fare per avere libero accesso a Dio Padre, a cui appartiene ogni cosa e che può dare ogni benedizione di vita. Questo è il Vangelo, fratelli e sorelle, e questo è tutto il Vangelo contenuto nel Salmo 24. Lui ha fatto questa strada affinché io potessi entrare per quelle porte, affinché io potessi stare alla sua presenza. E questa è una cosa gloriosa, e questa è una verità che per la quale goderemo in eterno. Sentite 1 Pietro 2,4 che cosa dice. Ha portato... Chi ha portato? L'unico che era in grado di portarli, i pesi, Cristo Gesù, l'uomo perfetto, il re dei re glorioso in battaglia, ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce affinché, questo affinché è grande quanto una casa, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure che siete stati guariti. Egli ha portato i nostri pesi affinché noi potessimo fare quella strada, salire a quel monte e stare alla sua presenza. Amen. Amen. Amen. Questo è il nostro miracolo, fratelli e sorelle. Questa è la nostra gioia. Questa è la nostra speranza. E quello che lui ha fatto è determinante, perché ricordate, chi vuole stare davanti al Signore, chi vuole stare in sua presenza e ricevere benedizione, ricevere giustizia, ricevere salvezza, deve essere santo. Fratelli e sorelle, io e tu siamo chiamati ad essere santi, puri, senza macchia, senza nulla che immischi il nostro cuore. Niente, siamo chiamati ad essere santi come Lui è santo. E noi da noi stessi non potremmo mai. Non potremmo mai farlo, ma è Lui che lo ha fatto per noi, e Lui, avendolo fatto anche per noi, che permette a noi di farlo, permette a noi di vincere il nostro peccato, permette a noi domani mattina di svegliarci da quel letto ed essere dei guerrieri potenti, perché noi abbiamo vinto, perché noi siamo potenti, no, perché siamo soldati di un re glorioso e potente in battaglia che ha già vinto. Fratelli e sorelle, Cristo Gesù non diventa una scusa per peccare. Cristo Gesù diventa la potenza attraverso la quale noi mettiamo ogni peccato nella nostra vita a morte. Io, attraverso Cristo Gesù, ho quella potenza domani mattina di dire alla mia impurità sessuale, di dire alla mia bugia, di dire alla mia mano che ruba, morte! Perché Cristo Gesù ha vinto. Io ti metto a morte nella mia vita, perché Cristo Gesù non solo ha vinto per se stesso, ma ha anche vinto per me. Amen? Ed è qui. Sapete, il Salmo 24 è un salmo di lode e adorazione. Ed è chiaro, adesso diventa un salmo di lode e adorazione. Con la prima parte, letta a metà, non è proprio di lode e adorazione, vero? Ma adesso, con la verità piena, con Cristo Gesù che unisce sulla croce le tue metà di questo salmo, diventa lode e adorazione per il nostro Dio, e lo sarà per sempre, senza fine di giorni. Amen. Amen. Amen. Questo è il nostro glorioso Dio, questo è tutto il Vangelo. Ma che cosa ne faccio da quando esco da quella porta con questo salmo? che cosa ne faccio? Ho parlato subito con Elijah, perché appena fuori da quella porta, sia lui che io siamo stati tentati dal peccato e siamo caduti. Io sono stato impaziente con lui, lui è stato ha mancato di rispetto nei miei confronti. E subito gli ho detto: Elijah, che ne facciamo del salmo che abbiamo appena sentito? Come permettiamo a Cristo Gesù di cambiare i nostri cuori? Tre cose veloci, pratiche. La prima: permetto a questo salmo di rivoluzionare la mia prospettiva e le mie priorità. Ricordate quello che abbiamo detto all'inizio? Abbiamo bisogno di 150 salmi per ricordarcelo, non una, non due, non 15, ma 150 milioni di volte, che noi non siamo il centro dell'universo, Lui è. E solo se mettiamo questo ordine nelle nostre vite, le nostre vite gireranno nel verso giusto. Quindi permetto al Salmo 24, come prima cosa, domani mattina, di mettere le cose a posto. Signore, per la Tua gloria, all'ode della Tua gloria, sia ogni cosa che succede nella mia vita. Io forse non la capisco, tutto quello che mi accade forse mi confonde, ma non confonde Te. Tu sei qui, Tu sei il centro, tutto ruota intorno a Te. Io sono qui per ruotare intorno a Te e per darti lode e gloria. Domani mattina io permetto al Salmo 24 di mettere le cose a posto, nel giusto ordine. La seconda cosa, pratica, che domani mattina mi sveglio e faccio. No, quando quelle porte di vetro si aprono e io le passo, permetto al Salmo 24 di fare una cosa, di predicare alla mia vita. Io ho bisogno di prendere il Salmo 24, è il 23, è l'1, è il 119, è il 76, è il 150, e predicarli ogni mattina a me, predicarli ogni mattina alle mie battaglie. Io cado, io mi sporco le mani, io macchio il mio cuore, ma Lui ha vinto. Per questo io posso dichiarare battaglia domani mattina, perché Lui ha vinto. E predico il Salmo 24 alle mie battaglie, alle mie circostanze, alle mie difficoltà, alle mie malattie. Dico: Signore, Tu hai vinto. Signore, Tu hai vinto una volta per sempre. E io abbraccerò la vittoria. Se non oggi, domani. Se non domani, dopodomani. Se non dopodomani, un giorno in gloria. Perché Tu hai vinto una volta e per sempre. Predico il Salmo a me. E l'ultima cosa pratica che faccio e che permetto a questo salmo di fare nella mia vita, e se sei qui questa sera, amico, e non hai mai riposto la tua fiducia con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze, e non hai detto: sì, io ci credo, e nel tuo cuore, nel profondo del tuo cuore, ti sei detto: sì, io veramente ci credo che Cristo Gesù è questo Re di gloria e che ha vinto per me, questa sera non puoi permetterti di uscire da questo posto senza mettere da subito in pratica il Salmo 24. Perché il Salmo 24 sarà pure una bella preghiera, il Salmo 24 sarà pure un canto glorioso, ma se ci metti la tua fede, con tutto il tuo cuore dici: io credo, diventerà la storia della tua vita, come lo è diventato la storia della mia vita e della nostra vita. Amen? Alziamoci in piedi. Chiudiamo i nostri occhi e combattiamo in questo momento, perché la prima cosa che il nemico vorrà fare è rubarci questa parola. La prima cosa che il nemico vorrà fare è rubarci queste verità, dandoci le sue menzogne, che sono mezze verità. Combattiamo in questo momento, arrendiamoci al Dio glorioso e adoriamolo. Abbiamo cantato un canto magnifico. Invito tutto il gruppo a salire e a guidarci in questo canto. Perché Lui è incomparabile. Perché Lui non ha eguali. Perché il Suo nome è meraviglioso e glorioso e potente. Per questo possiamo cantarlo con tutti i nostri cuori, fratelli e sorelle. E facciamolo. Facciamolo, io sento che ci sono persone qui in questo momento che stanno battagliando contro l'accusa del nemico che dice sì, ma hai chiesto 20 volte perdono e non hai vinto mai, non hai vinto mai questo peccato, non hai vinto mai questa battaglia, non hai vinto mai questa malattia. Al nemico dichiara guerra, metti a morte queste parole, metti a morte questi pensieri, metti a morte il peccato nella tua vita, mettilo a morte in questo momento, dichiara guerra perché il tuo glorioso ha già vinto. E se senti di venire avanti, perché ti devi arrendere a Lui, durante il canto fallo, potete iniziare a farlo anche adesso. E come dicevo, se questa sera sei qui e non hai mai con tutto il tuo cuore detto Signore sì, io ci credo che non sei solo una religione, Cristo Gesù, ci credo che non sei solo stato una buona persona, un buon insegnante, un buon profeta, ma sei il figlio di Dio, sei Dio stesso che ha vinto quella vittoria per me questa sera. Se credi questo questa sera, se questo è il tuo grido di fede questa sera, allora vieni avanti e confessalo. Chiudiamo i nostri occhi, alziamo le nostre mani, iniziamo ad innalzare questo canto.